per il codice a correre in difesa. Arriva il modello salto a terra rotolando, senza più obiettivo, schivando gli imprevisti. Vado si rimando in questo percorso da secoli.